Ministro Maroni, per la prima volta ieri tutti i sindacati delle forze di polizia, i COCER, sono stati in piazza in rappresentanza di 500.000 lavoratori delle forze dell'ordine. C'erano anche, e le chiederò separatamente, insomma, anche esponenti politici di opposizione, Veltroni, Di Pietro, Casini. Lei ha ribadito non ci saranno tagli. Oggi sul Sole 24 Ore, nella lettura del maxi emendamento, si legge il governo sostanzialmente ci sarà nel triennio 1,8 miliardi di euro per il Ministero della Difesa, in questo caso, e 1,6 miliardi di euro di tagli per il Ministero dell'Interno. Ci può spiegare bene, perché insomma, leggendo le tabelle, tutti dicono, i sindacati dicono, ci sono questi tagli. Primo punto, noi abbiamo una situazione difficile oggi, 18 di luglio, una situazione difficile per la gestione dell'ordine pubblico, perché abbiamo problemi di risorse derivati non dalla legge finanziaria che il governo si accinge ad approvare, che il Parlamento si accinge ad approvare, ma di quella approvata dal governo Prodi. Le due finanziarie del governo Prodi hanno tagliato ogni anno 800 milioni di euro. Nel 2008 abbiamo meno 800 milioni di euro rispetto al 2007. E questa è la situazione di grave difficoltà che noi stiamo affrontando. Quindi vedere in piazza ieri Di Pietro, Veltroni che urlavano contro i tagli mi ha fatto pensare a quanta ipocrisia ci sia nella politica italiana. Loro hanno tagliato davvero. Quello che noi stiamo facendo e che vogliamo fare è tagliare, invece tagliare i tagli. È vero che le tabelle sono queste, ma bisognerebbe leggere anche che cosa c'è d'altro, e si vedrebbe che questi tagli sono ridotti e anzi eliminati del tutto da due fondi straordinari che sono istituiti. Il primo per circa 400 milioni di euro, che quindi azzera il taglio almeno del 2009, e il secondo è un fondo straordinario che viene finanziato con una risorsa finora rimasta latente e quasi sconosciuta, che sono i beni mobili e finanziari confiscati alla mafia. Ci sono migliaia di conti correnti bancari e postali in giro per l'Italia, confiscati dalle procure, con tanti tanti soldi sopra, che sono lì infruttiferi, nessuno li utilizza, forse non si sa neanche bene quanti sono e dove sono, e sono beni nel patrimonio dello Stato, lasciati lì persi. Noi li vogliamo recuperare e mettere tutti a disposizione delle forze dell'ordine e della sicurezza. Abbiamo stimato che supera il miliardo di euro questo deposito suddiviso in migliaia di conti correnti confiscati alla mafia. Nei prossimi mesi faremo una ricognizione esatta in modo tale che quando la finanziaria entra in vigore, 1 gennaio 2009, avremo non solo i più 400 milioni attualmente previsti, ma speriamo di arrivare a superare il miliardo di euro in modo tale da avere l'esatto contrario di quello, sì, di cui si parla. Quindi l'1,6 miliardi di euro sarebbero, esatto, compensati con questi due fondi, i 400 milioni. No, attenzione, 1,6 miliardi in tre anni. Sì. Noi parliamo di 1 miliardo più 400 milioni già subito nel 2009. Questa è la verità. Il resto sono solo polemiche pretestuose.